si è constatato dalla nostra sede, Pettini Centro, ospedale Morti a Mammeta, che i matti possono venire da una cosa sola. La madre della madre, cioè la nonna, puzzava più da viva che da morta. Questo puzzo per noi della Psychology for Fumi è veramente importante. Lo studio è stato lasciato perdere. Non ci interessa. Ci chiediamo: è matto? Non si lava. Lasciatelo andare. Ecco perché i nostri ospedali sono sempre vuoti. Realtà 32.094.834.209 del libro Psicologie Moderne / Bis.